che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dopo l'elezione di Obama, una nuova generazione di musulmani, stanchi del fondamentalismo e desiderosi di vivere all'occidentale, sperano che l'ondata di rinnovamento possa investire anche i paesi islamici. Giovanni è il classico turista per caso di genere avventuroso. Nella vita fa il sindacalista della CGIL, ala dissidente. Siamo tra i duri e i puri, i trotskisti critici persino nei confronti di Rifondazione Comunista. Proprio nei giorni dell'elezione di Barack Obama, Giovanni andava a zonzo abbastanza liberamente, con un solo compagno di viaggio, per l'Iran. E adesso racconta stupito. Non credevo ai miei occhi. C'era una grandissima aspettativa, largamente al di sopra rispetto a quello che ho sentito in Italia, soprattutto tra i giovani iraniani con cui siamo riusciti a entrare in contatto. Obama è anche il loro sogno. Non ne possono più del fondamentalismo e del clero islamici. Vogliono liberarsi di una casta che considerano corrotta e insopportabile. Vogliono vestire e consumare come noi. E pluribus unum. Dai molti, uno. E l'uno non è certo quel Mahmoud Ahmadinejad che solo qualche scintillante provocatore delle nostre parti può dire con disinvoltura di ammirare. Ma l'uno forse non è più neanche Osama Bin Laden, il personaggio simbolo del terrore. L'orizzonte unico della paura appare di nuovo finalmente offuscato dal potere della seduzione. La voglia dei giovani iraniani di diventare come noi occidentali, racconta ancora Giovanni, si nota subito guardando le ragazze. E ovviamente saltano agli occhi le più carine e civettuole, che non hanno nessun timore a presentarsi con le loro minigonne, truccate e accessoriate di tutto punto, e magari pure col naso rifatto. Se lo ammette dopo un viaggio in Iran persino un comunista ad oltranza, uno che le bandiere statunitensi le ha sempre guardate bruciare nei cortei con una punta di compiacimento, ecco che oggi più che mai non possiamo non dirci americani. In fondo, è il motto che anche tanti giovani iraniani vorrebbero fare proprio. Nonostante la censura severa, il modello di vita occidentale è ancora oggi l'obiettivo cui tendono le nuove generazioni, soprattutto quelle allevate a pane ed internet, che hanno avuto la fortuna di nascere nel mondo nuovo della comunicazione istantanea. In una parola, i millennials. Se poi dall'Iran si va a guardare più liberamente ancora tra la gioventù di Dubai, tutta MTV e Gucci, si tocca con mano l'avanguardia dell'occidentalizzazione della nuova borghesia musulmana. L'ha fatto recentemente anche una cronista di Time, Sarah Raper Lorenodi, che ha potuto notare come tutte le giovani donne cercano di uscire comunque dalle rigide gabbie islamiche, anche semplicemente limitandosi ad accessoriare il tradizionale abaya, l'abito lungo nero, con vistosi occhiali da sole di marca e gioielli sgargianti. Anche tra i giovani maschi modaioli va di moda ritoccare comunque gli abiti tradizionali, personalizzandoli con dettagli all'occidentale. A Kuwait City ci sono negozi come il Villa Moda, dove i giovani vanno a ordinare tuniche e foulard riadattati e griffati da stilisti come Tom Ford, Dri Van Noten e Gilles Sander. La giornalista inglese Allegra Stratton, per parte sua, ha scritto addirittura un libro su quella cultura di confine tra religione e secolarizzazione, che si può vedere tra le ragazze che riescono a essere insieme sexy e devote nei paesi arabi islamici. In una parola che dà il titolo all'inchiesta, le Muajah Babes. È un gioco di parole anglo-arabo che combina il termine Muajaba, ovvero donna che porta il velo, e il ben noto inglese cinematografico Babe. Si usa per indicare le ragazze che comunque non rinunciano mai ai tacchi a spillo e al look di qualche griffo occidentale, e magari in testa usano pure foulard neri trasparenti molto alla moda. Nella maggior parte del mondo, scrive ancora Time, la moda sembra avere ormai esaurito le sue potenzialità rivoluzionarie, ma in Medio Oriente l'abbigliamento appare come uno strumento sottile ma efficace nelle mani di ribelli e riformisti che cercano di provocare l'establishment. E giusto per avere ben chiari i termini della questione, dobbiamo considerare che l'area tradizionale del Middle East, del colonialismo britannico, che si estende dall'Asia occidentale al Nord Africa, è ben diversa dalla vecchia Europa, anche per la composizione della popolazione. Gli under 25 sono circa la metà degli abitanti di questo mondo di mezzo. Ora, non tutti questi ragazzi sognano proprio d'essere adottati da Brad Pitt e Angelina Jolie, ma molti sicuramente guardano al nostro modo di vivere e al sogno americano come un miraggio. Vallo a spiegare a certi bastian contrari delle nostre parti, che si impancano adesso tradizionalisti filo-khomeinisti o si proclamano ancora ammiratori del Mullah Omar. Alla fine, la semplice verità è che fino a ieri l'immagine degli Stati Uniti appariva rovinata. Decisamente sembrava quella di Hope, l'ultima protagonista femminile uscita dalla penna del grande genio visionario David Foster Wallace, un tempo voluttuosa alla Rubens, ora aspra e avvizzita. In poche parole, l'insieme ha assunto un aspetto furbesco e predatorio, e quello che un tempo era il ben noto scintillio dei suoi occhi è diventato mera avidità. Ecco, sul limite dell'horror vacui di un vulcano di denaro tossico e fasullo, prodotto finale proprio di quel grid senza più luce che sembrava aver preso il sopravvento, gli Stati Uniti hanno espresso, e pluribus unum appunto, un nuovo grandissimo esempio del loro potere di seduzione universale. Barack Obama, secondo gli studiosi di comunicazione e di politica, unisce addirittura la forza d'impatto insieme di tre figure come Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King. Ma come ci racconterebbe un millennials dell'Iran o di Dubai, nel mondo della paura appare più affascinante di una superstar hollywoodiana. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Martini, Sorpresa, son millennials, dal numero 4 dicembre 2008 del mensile Intelligence Lifestyle, in vendita in abbinamento al Sole 24 Ore. Letture di Radio 24. Dalle pagine del Foglio leggiamo un commento sui disordini che si stanno verificando in questi giorni in molte città della Grecia. Atene. Alexandros Grigoropoulos, il quindicenne ucciso sabato scorso ad Atene da un poliziotto, non era un anarchico. E neppure abitava ad Exarchia, il quartiere malfamato ma pieno di bar trendy, dove un mese e mezzo fa negozianti e residenti avevano organizzato un corteo di protesta contro lo Stato che ci ha abbandonati. Se chiamiamo la polizia non arriva nessuno, perché hanno paura di ritorsioni da parte dei gruppi eversivi. Alexandros frequentava il liceo Moraitis, uno dei più esclusivi della capitale greca. La madre ha una profumeria in centro, il padre è dirigente di banca. Alexandros giocava nella squadra di basket del suo quartiere bene, psichico, e i suoi compagni di scuola escludono avesse grilli per la testa. Al massimo professava idee progressiste. Forse si era messo a frequentare cattive compagnie. O forse gli insulti o i lanci di bottiglie ai poliziotti sono stati una bravata da bulletti. Ma questa morte, che ha funzionato da miccia alla guerriglia urbana che sconvolge le città greche da 3 giorni, non è un caso isolato. Come non è un'ondata di rabbia improvvisa quella che ha fuso insieme la protesta degli universitari, dei liceali e dei sindacati che sfilano nelle piazze seguite da gruppetti in passamontagna nero. È un fiume che tracima ora dopo anni di incidenti, scontri fra anarchici e polizia da un lato e delusione dei cittadini verso la classe politica di centrodestra e di centrosinistra che da 30 anni si alterna al potere con le stesse modalità clientelari dall'altro. Un malessere cui si è sommata la crisi economica, oltre a una controversa riforma del sistema universitario all'esame in Parlamento. Questa esplosione di follia collettiva è soprattutto il risultato della debolezza dello Stato del rimandare sempre la soluzione dei problemi. E per Stato indico sia i governi di Nuova Democrazia, il partito di centrodestra alla guida del paese dal 2004, sia quelli socialisti del PASOK, dice al Foglio Thanos Veremis, docente di storia moderna all'Università di Atene. Gli fa eco nell'editoriale di lunedì scorso il quotidiano Tanea. Da troppi anni assistiamo a una situazione di guerra non dichiarata fra gruppuscoli e polizia, con epicentro il quartiere di Exarchia, senza che mai nessuno sia stato consegnato alla giustizia. Quanto ai vandalismi avvenuti in queste ore in tutta la Grecia, anche qui non si può sottolineare la debolezza delle forze dell'ordine nel difendere le proprietà dei cittadini. La sinistra accusa il governo Karamanlis e ne chiede le dimissioni. Ma quando era al potere il PASOK, non ha fatto nulla di meglio per fare pulizia fra gli anarchici, che a ogni manifestazione pacifica si accodano e fanno danni. Fino a che questa impunità perdura, c'è il pericolo che i vandalismi di questi giorni si ripetano, dice Vassos Vegenas, poeta e docente di teoria e critica letteraria all'Università di Atene. Ora tutti ricordano l'uccisione di un altro quindicenne, Michalis Kaltezas, nel 1955 da parte di un agente ad Exarchia. E anche i piccoli attentati dinamitardi di gruppi anarchici o insurrezionalisti che quasi ogni mese avvengono ad Atene. L'ultimo la settimana scorsa, con due bombe incendiarie lanciate contro il Ministero dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, rivendicati da una organizzazione rivoluzionaria. Una sigla fra i 60 gruppi che colpiscono banche, ministeri, supermercati, commissariati, senza morti o feriti. Tutte sigle che poco o nulla hanno a che fare con le Brigate Rosse Greche, l'organizzazione 17 novembre sgominata nel 2003 dopo 30 anni di assassini. Fra i gruppi anarchici c'è però la Brigata Giuliani, che ha tappezzato Atene di manifesti dopo la morte a Genova di Carlo Giuliani nel 2001. In passato ci sono stati contatti dei black bloc greci con i gruppi italiani, dall'arresto di Christos Stratigopoulos nel 95, condannato in Italia per banda armata, fino a Edo Massari, l'anarchico accusato degli attentati contro l'alta velocità e morto suicida in cella. Ai funerali del quale, secondo i carabinieri del ROS, si presentò una delegazione di 15 greci. Fino alla stagione dei pacchi bomba, 6 involucri al Tritolo e un ordigno in Piazza Diaz a Milano, rivendicati da Solidarietà Attiva con Maziotis, altro leader anarchico ellenico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Così gli anarchici hanno deciso di incendiare ora la Grecia» dal Foglio del 9 dicembre. La nostra memoria ci permette di immagazzinare un'immensa quantità di episodi della nostra vita e di poterli rievocare in qualsiasi momento, a volte fin nei minimi dettagli. Ma succede la stessa cosa anche agli animali? Se siamo seduti attorno a un tavolo e chiacchieriamo del più e del meno con gli amici, inevitabilmente ci vengono in mente degli episodi che ci sono capitati tempo addietro, spesso molti anni prima. La volta che il nostro cane si perse nel quartiere, la volta che il figlio del nostro vicino si perse all'aeroporto, la volta che abbiamo perso l'aereo per un pelo, la volta che siamo riusciti a prendere il treno, ma il nostro amico l'ha perso per un pelo. La volta che sul treno c'era un caldo soffocante e siamo dovuti rimanere in piedi nel corridoio per tutte e quattro le ore del viaggio. La volta che siamo saliti sul treno sbagliato e non siamo potuti scendere prima di un'ora e mezzo. La volta che non c'era nessuno che sapeva una parola di inglese tranne Marilyn Monroe, pronunciata sogghignando, insieme a gesti sguaiati che disegnavano nell'aria la sagoma di una clessidra. La volta che, mentre guidavamo in piena notte nelle campagne della Slovenia, ci siamo completamente persi e stavamo per finire la benzina, eppure siamo comunque riusciti in qualche modo a trovare la strada per il confine con l'Italia, usando una manciata di parole in pseudo-sloveno. E così via. Gli episodi sono in un certo senso concetti, ma si svolgono nel tempo e ciascuno di essi è, così almeno si presume, totalmente unico. Un po' come un nome proprio, ma senza etichetta, ed è collegato a un momento particolare nel flusso temporale. Benché ciascuno di essi sia un unicum, anche gli episodi si possono classificare in categorie loro proprie, come il capoverso precedente, con il suo tono ammiccante. Hai presente, vero? Suggerisce. Perdere un aereo per un pelo non è un evento eccezionale, anche se vi è capitato solo una volta nella vita. È molto probabile che conosciate diversi esempi di questa categoria e potete facilmente immaginarvene un numero illimitato di altri. La memoria episodica è il nostro magazzino privato di episodi capitati a noi e ai nostri amici e ai personaggi dei romanzi che abbiamo letto e dei film che abbiamo visto e degli articoli di giornale e dei servizi televisivi e così via. E forma una delle componenti principali della memoria a lungo termine che ci rende così umani. Ovviamente i ricordi degli episodi possono essere attivati da eventi esterni di cui siamo stati testimoni o da altri episodi che sono stati attivati e, in maniera altrettanto ovvia, quasi tutti i ricordi di episodi specifici sono latenti per quasi tutto il tempo, altrimenti diventeremmo matti dalle gare. Cani e gatti hanno una memoria episodica? si ricordano di eventi specifici accaduti anni o mesi or sono, o solo ieri, o appena 10 minuti fa. Quando porto il nostro cane, Holly, a fare una passeggiata, si ricorda di come aveva tirato il guinzaglio il giorno prima, cercando di salutare quella graziosa dalmata dall'altro lato della strada, che stava a sua volta strattonando il suo guinzaglio. Si ricorda di come 3 giorni fa abbiamo preso una strada diversa dalla solita. Quando lo porto al canile durante le vacanze del giorno del ringraziamento, sembra che si ricordi del canile come di un posto, ma si ricorda di una qualunque cosa in particolare che era accaduta là l'ultima volta, o una qualsiasi volta in cui c'è stato. Se un cane è spaventato da un luogo particolare, si ricorda di un trauma specifico che gli è capitato là, o c'è solo un senso generalizzato di qualcosa di cattivo associato a quel posto? Non devo necessariamente rispondere qui a queste domande, per quanto le trovi affascinanti. Non sto scrivendo un trattato accademico sulla consapevolezza negli animali. Tutto quello che vorrei è che i lettori pensassero a queste domande e fossero d'accordo con me sul fatto che alcune di esse meritano di avere come risposta sì, altre no, e che per alcune una risposta non possiamo darla facilmente. La questione generale che vorrei però sottolineare è che noi umani, a differenza degli altri animali, abbiamo tutti questi tipi di ricordi. In effetti ne abbiamo a bizzeffe. Ci ricordiamo nei minimi particolari di alcuni episodi di vacanze che abbiamo fatto 15 o 20 anni fa. Sappiamo esattamente perché siamo spaventati da certi posti o persone. Possiamo rievocare in dettaglio la volta che a Venezia o a Parigi o a Londra ci siamo imbattuti in Tizio o Caio in maniera del tutto inaspettata. La memoria umana, nella sua profondità e complessità, è di una ricchezza sbalorditiva. Nessuna meraviglia, quindi, che quando un essere umano, in possesso di un armamentario così ricco di concetti e ricordi con cui lavorare, rivolge la sua attenzione a se stesso, come inevitabilmente deve fare, produca un modello di sé che è straordinariamente profondo e intricato. Ed è questo profondo e intricato modello di sé ciò che costituisce, in definitiva, l'essenza della nostra ioità. Avete ascoltato un capitolo dal libro di Douglas Hofstadter, Anelli dell'Io, che cosa c'è al cuore dell'intelligenza? Mondadori Editore, 510 pagine, 22 euro. Dopo aver raccontato per 40 anni i sogni e le paure di diverse generazioni di italiani, Pupi Avati racconta a se stesso nella sua autobiografia Sotto le stelle di un film. Ascoltiamo la lettura di un passaggio nel quale il regista bolognese parla del suo rapporto con la fede. La mia fede è questa. Io vado in chiesa a San Giacomo in Augusta, in Via del Corso, a pregare Dio di esistere. Sembra un controsenso, ma è così. Io chiedo a Dio di esserci, quindi dubitando, ma avvertendo la necessità fortissima che ci sia, perché se non ci fosse Dio, mi mancherebbe quell'interlocuzione terza, che nella comunicazione mondana è assente. Nel momento del bisogno, se vivo un travaglio psicologico, una situazione personale difficilissima da gestire, molto intima, a chi mi rivolgo? A chi chiedo aiuto? Allora, io che sono credente, provo ad andare da un confessore, e questo prete mi dice che non è peccato, che ho bisogno di uno psicanalista. Questo mi è accaduto in San Pietro con un confessore irlandese. Ma è possibile che i preti abdichino al loro ruolo così, che mi mandino dai loro colleghi psicanalisti? Ma io non vado dallo psicanalista, perché ho paura di farmi guardare dentro. Ho paura che mi spieghi troppo chi sono, che mi dia troppe informazioni su di me, mentre io voglio rimanere un mistero per me stesso. Perché finché sono un mistero, riesco a illudermi di essere qualcuno che non sono. Mentre se vengo risvegliato con 2 ceffoni, a chi ricorro, insomma? Direttamente al padrone di casa, non al cameriere o all'usciere, all'interlocuzione diretta con Dio. E ho la risposta da questo centro d'ascolto soprannaturale. E avviene il miracolo. Io a un certo punto vengo sollevato dall'angoscia, attraverso una formula che mi arriva un bel giorno in una busta. Ed è un pensiero di un prete napoletano dell'Ottocento. Nell'angoscia, non cercare di risolvere la cosa a modo nostro, ma affidarsi completamente, chiudere gli occhi e aspettare. Ho fatto così. E un grumo di angoscia di anni è scomparso. Mi sono sentito totalmente liberato. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dell'autobiografia di Pupi Avati, Sotto le stelle di un film. Il margine editore, 176 pagine, 16 euro.